Sappiamo tutti di che cosa avrebbe bisogno la nostra città: di più servizi, più scuole, più asili nido, più centri per i giovani, più assistenza per gli anziani, e poi più verde, più parcheggi, un traffico più regolato, una rete di trasporti pubblici più efficiente, un'amministrazione, insomma, capace di prendersi cura dei bisogni e degli interessi concreti dei cittadini, con particolare riguardo alle fasce più deboli della popolazione. E sappiamo tutti, naturalmente, che nella congiuntura attuale non avremo nulla di tutto questo. Gli interessi che stanno a cuore a chi ci amministra sono ben altri, e quanto ai servizi, l'idea corrente a Palazzo Marino è quella di riservarli a chi se li può pagare a caro prezzo. Da chi, come prima misura per il contenimento del traffico, decide di aumentare il costo del biglietto del tram, non ci si può aspettare un granché. Qualcosa, tuttavia, avremo. Avremo per esempio gli stemmi di quartiere. Ce lo assicura un trafiletto sui giornali, io l'ho trovato sul Corriere del 23 scorso, vi ci si legge che l'assessore al decentramento, che Dio lo perdoni, ha deciso di coinvolgere gli abitanti delle 9 circoscrizioni cittadine nella ricerca di uno stemma per ogni zona di Milano, invitandogli a scegliere un simbolo tra i monumenti e i luoghi più caratteristici del quartiere in cui abitano. Il regolamento dell'iniziativa è assai semplice e basterà sottoporre al proprio consiglio di zona, presentandosi di persona o naturalmente via internet, lettere, messaggi e disegni con l'indicazione del soggetto scelto. La raccolta durerà fino al febbraio 2002 e tra tutte le proposte saranno scelti gli stemmi che a partire dal giugno prossimo verranno esposti sugli edifici pubblici e sulla segnaletica stradale. Il cittadino legge è un po' trasecola. Di uno stemma di zona, di quartiere o di circoscrizione non sentiva sinceramente una gran necessità. Gli stemmi d'altronde hanno una funzione precisa, quella di esprimere un'identità, di affermare una tradizione, e le circoscrizioni del decentramento milanese non hanno né l'una né l'altra. Sono state ridisegnate un paio d'anni fa secondo criteri che io francamente non ho capito, e ciascuna di esse comprende delle realtà urbane alquanto eterogenee tra di loro. Tanto è vero che la maggior parte dei milanesi, se interpellata, non saprebbe neanche dire in quale zona risiede. Uno sa benissimo di abitare al Sempione o a Porta Romana, a Città Studio o alla Barona, ma precisare sui due piedi a quale entità amministrativa corrispondano queste identità riconosciute è tutt'altro che facile. E quanto ai simboli con cui identificare le nuove astrazioni burocratiche, beh, anche quelli non è troppo facile farseli venire in mente. La maggior parte dei monumenti e dei luoghi caratteristici del paesaggio ambrosiano si trovano entro la cerchia dei bastioni spagnoli, nella zona 1. E alle 8 circoscrizioni periferiche resta poco da scialare. In effetti, i dirigenti della zona 6, che con un misto di efficientismo decisionista e disinteresse per le scelte popolari hanno già presentato il simbolo della loro zona, non sono stati capaci di trovare nulla di meglio che un profilo umano iscritto nel numero 6 su fondo blu. Non si sono proprio sforzati, ma vi si può anche capire. Io, che se non ho fatto confusione abito in una circoscrizione che si estende da Quarto Giaro fin quasi all'Arco della Pace, e sarei davvero imbarazzato a fare qualche proposta. Certo, considerando il fatto che in zona risiede il sindaco in persona, potrei azzardarmi a proporre l'immagine di un pavone che fa la ruota, oppure, tenendo conto dell'esosità del mercato immobiliare e quella di certi esercenti, potrei riesumare la classica man rampante in campo altrui che gli sceneggiatori di Topolino tanti anni fa avevano assegnato alla banda Bassotti. Ma si tratta di una simbologia che non ha specifiche connotazioni locali e dubito che l'assessorato la prenderebbero in considerazione. In realtà tutta l'iniziativa ha l'aria di essere una di quelle tipiche campagne d'immagine con cui i nostri amministratori si sono specializzati da tempo al fine manifesto di farsi pubblicità a nostre spese con i pretesti più futili. Mi direte che abbiamo visto di peggio e che non è il caso di prendersela più che tanto. È vero. Ma è anche vero che certi particolari minimi talvolta sono molto rivelatori. Perché vedete, tra le tante cose di cui ha bisogno Milano ci sarebbe anche un serio decentramento amministrativo che colmasse la distanza che separa le istituzioni dai cittadini e permettesse, come in tutte le grandi città degne dell'aggettivo, un vero autogoverno a livello locale. Di questo progetto, tuttavia, giunta e sindaco sono stati finora nemici acerrimi. Il nuovo ordinamento delle circoscrizioni, in effetti, è stato realizzato proprio al fine di togliere ai consigli di zona precedenti la maggior parte degli scarsi poteri di cui disponevano. E capirete, chi come il buon Albertini aspira a governare da solo grazie a una serie di poteri straordinari, non può vedere di buon occhio crescere lo svilupparsi di forme di autogoverno di qualsiasi genere. I consigli di zona, dal punto di vista dell'attuale maggioranza, devono sforzarsi soprattutto di non esistere. In compenso saranno dotate di uno stemma, come a dire che avranno il riconoscimento formale di un'identità e di una funzione che viene negata nei fatti. Un'etichetta, in sostanza, ma un'etichetta menzognera, destinata a coprire soprattutto una non realtà. Capita spesso, d'altronde, con le iniziative e le dichiarazioni di questa banda di narcisisti incapaci, bravi soltanto nell'autoincensarsi, mentre la città che gli è stata incautamente affidata va pezzo per pezzo in malora. Deve essere questo, suppongo, il bello della civiltà dell'immagine.